Capitolo 6. Un giorno di settembre, sulle colline dell'isola del principe Edward, un vento frizzante soffia dal mare sulle dune sabbiose. Una lunga strada rossa serpeggia tra campi e boschi e ora descrive una curva attorno a un angolo fitto di abeti. Ora si infila in una piantagione di giovani aceri, sotto i quali si allargano leggere distese di felci. Ora sprofonda in una valletta dove un ruscello scaturisce come un guizzo dai boschi e vi si immerge di nuovo. Ora si crogiola il sole tra strisce di astri color giallo carico e grigio azzurro. L'aria vibra dello stridio di miriadi di grilli, piccoli abitanti gioiosi delle colline d'estate. Un pony bruno e grassottello cammina lemme lemme lungo la via e due ragazze lo seguono in calesino, con il cuore colmo della gioia semplice, inestimabile di vivere e di essere giovani. Oh, questa è davvero una giornata degna del paradiso terrestre, non credi, Diana? Disse Anna con un sospiro di vera felicità. C'è come una magia nell'aria. Guarda quel rosso porporino in fondo a quella valle ricca di messi, Diana. Senti, senti il profumo del pino che muore. Viene da quella valletta piena di sole dove il signor Eben Wright ha tagliato i pali per lo steccato. Che gioia essere vivi in un giorno come questo! Ma sentire il profumo del pino che muore è davvero il paradiso. Questo, per due terzi, appartiene a Wordsworth e per un terzo appartiene ad Anna Shirley. Non sembra possibile che in paradiso ci sia un pino che muore, vero? Eppure non credo che il paradiso sarebbe perfetto se, passeggiando nei boschi, tu non potessi sentire almeno uno sbuffo del profumo di pino che muore. Forse lassù resterà solo il profumo, senza la morte. Sì, credo che sia così. Quell'aroma delizioso deve essere l'anima del pino, ed è ovvio che in paradiso ci sono solo anime. Gli alberi non hanno anima, disse Diana in tono pratico, ma il profumo del pino morto è davvero inebriante. Voglio farmi un cuscino e riempirlo di aghi di pino. Faresti bene a farne uno anche tu? Penso proprio che lo farò. E lo userò quando schiaccio un pisolino. Sono sicura che sognerò di essere una ninfa dei boschi, ma in questo preciso momento sono ben contenta di essere Anna Shirley, la maestra di Avonlea, che se ne va a spasso su una strada come questa, in un giorno dolce e amabile come questo. Sì, è una bella giornata, ma il compito che ci attende non ha nulla di bello, sospirò Diana. Perché mai ti sei offerta di svolgere la nostra propaganda su una strada come questa, Anna? Ci vivono tutti i tipi più strani di Avonlea e probabilmente saremo trattate come se chiedessimo l'elemosina per nostro conto. È la strada peggiore di tutte. È proprio per questo che l'ho scelta. Naturalmente Gilbert e Fred non avrebbero fatto obiezioni a questa strada se glielo avessimo chiesto. Ma vedi, Diana, sono io che mi sento responsabile della società per il progresso di Avonlea, dato che sono stata la prima a suggerirla e mi sembra che tocchino a me le incombenze più sgradevoli. Mi spiace per te, ma puoi startene zitta quando si tratta di gente stravagante. A parlare ci penso io. La signora Linde direbbe che non mi trovo in difficoltà quanto a questo. La signora Linde è incerta se approvare o no la nostra iniziativa. Propende per il sì, quando ricorda che i signori Allan hanno espresso parere favorevole, ma il fatto che questo tipo di società sia nato negli Stati Uniti gliela mette in cattiva luce. E così esita tra il sì e il no, e solo il successo ci giustificherà ai suoi occhi. Priscilla scriverà un bel discorso per la nostra prossima riunione e credo che sarà un bel discorso dato che sua zia è una scrittrice di talento e senza dubbio saper scrivere è un dono di famiglia. Non dimenticherò mai il brivido che provai quando scoprì che la signora Charlotte E. Morgan era la zia di Priscilla. Mi sembrava talmente magnifico essere amica della ragazza la cui zia ha scritto I giorni di Edgewood e Il giardino dei boccioli. Dove vive la signora Morgan? A Toronto. E Priscilla ha detto che l'estate prossima verrà qui, nell'isola, e se è possibile combinerà di farcela conoscere. Sembra quasi troppo bello per essere vero, ma mi piace fantasticarci su dopo essere andata a letto. La Società per il Progresso era ormai varata. Gilbert Blythe ne era il presidente, Fred Wright il vicepresidente, Anna Shirley la segretaria e Diana Barry la tesoriera. I progressisti, come furono subito battezzati, Dovevano riunirsi una volta ogni 15 giorni in casa di uno dei membri. Era già convenuto che, data la stagione inoltrata, non si poteva sperare in molte migliorie, ma essi intendevano programmare la campagna per la prossima estate, raccogliere e discutere le idee, scrivere e leggere relazioni e, come diceva Anna, sensibilizzare la pubblica opinione in generale. Vi fu chi disapprovò, naturalmente, e, cosa che ferì profondamente i progressisti, chi li mise in ridicolo. Qualcuno riferì di aver sentito il signor Elisha Wright affermare che un nome più appropriato per la società sarebbe stato Circolo dei Corteggiatori. La signora Miriam Sloan dichiarò di aver saputo che i progressisti avevano l'intenzione di scassare tutte le banchine stradali e piantarvi dei gerani. Il signor Levi Balter mise in guardia i vicini, asserendo che i progressisti si ripromettevano di convincerli tutti a radere al suolo le loro case per ricostruirle su progetti approvati dalla società. Il signor James Spencer fece loro sapere che avrebbe gradito che spalassero la collina della chiesa. Eben Wright disse ad Anna che sperava che i progressisti persuadessero il vecchio Josiah Sloan a tagliarsi le basette. Il signor Lawrence Bell garantì che per compiacerli avrebbe imbiancato a calce i fienili, ma che non avrebbe assolutamente adornato di tendine di merletto la finestra della stalla. Il signor Major Spencer chiese a Clifton Sloan, un progressista che portava il latte alla fabbrica di formaggio di Carmody, se era vero che l'estate prossima tutti avrebbero dovuto avere il chiosco del latte dipinto a mano e tenere sul banco un centrino ricamato. Nonostante tutto ciò, o forse, essendo la natura umana quella che è, a causa di tutto ciò, la società si pose allegramente al lavoro sull'unico miglioramento che potevano sperare di apportare in quell'autunno. Alla seconda riunione, nel salotto dei Berry, Oliver Sloan propose di lanciare una sottoscrizione per rifare il tetto e ridipingere il circolo ricreativo. Julia Bell lo appoggiò con la sgradevole sensazione di stare facendo qualcosa di non esattamente consono alla sua femminilità. Gilbert presentò la mozione, che fu approvata all'unanimità, e Anna, con la dovuta solennità, la verbalizzò. Il passo successivo era quello di nominare un comitato e Gertie Pye, decisa a impedire che tutti gli allori andassero a Julia Bell, propose audacemente che la signora Jane Andrew fosse la presidentessa del suddetto comitato. Dopo che anche questa mozione fu debitamente appoggiata e approvata, Jane contraccambiò la gentilezza chiamando Gertie a far parte del comitato, insieme a Gilbert, Anna, Diana e Fred Wright. Il comitato in conclave segreto deliberò la scelta delle strade dove avrebbero dovuto fare la colletta. Ad Anna e a Diana venne assegnata la strada di Newbridge, a Gilbert e a Fred quella per White Sands e a Jane e Gertie la via per Carmody. Spiegò Gilbert ad Anna mentre tornavano a casa insieme attraverso il bosco stregato. Tutti i Pye abitano in quella via e non tireranno fuori un centesimo se non è uno di loro a fare la colletta. Il sabato successivo, Diana e Anna iniziarono l'operazione. Andarono in calesse fino al termine della strada e poi bussarono casa per casa, tornando indietro a cominciare dalle signorine Andrews. «Se c'è Catherine sola, forse ne caveremo qualcosa, ma se c'è Eliza...» No, Eliza c'era, non v'erano dubbi in proposito, e pareva più arcigna del solito. La signorina Eliza era una di quelle persone che ti danno l'impressione che la vita è davvero una valle di lacrime e che un sorriso, per non dire una risata, è uno spreco di energie veramente riprovevole. Le signorine Andrews erano rimaste signorine da una cinquantina d'anni, e sembrava probabile che sarebbero rimaste tali fino al termine del loro pellegrinaggio terreno. Catherine, dicevano, non aveva perduto tutte le speranze, ma Eliza, nata pessimista, non ne aveva mai avute. Vivevano in una piccola casa color marrone costruita in un angolo solatio, ricavato tra i boschi di faggio di Mark Andrew. Eliza si lamentava che d'estate c'era una fa terribile, ma Catherine diceva sempre che d'inverno si stava bene al caldo. Eliza stava cucendo una coperta patchwork, fatta con pezzi di stoffa di forma e colore diverso, non perché ne avesse bisogno, ma come protesta al frivolo merletto che Catherine eseguiva all'uncinetto. Eliza le ascoltò aggrottando la fronte e Catherine con un sorriso, mentre le ragazze spiegavano lo scopo della loro visita. A dir la verità, ogni volta che Catherine incontrava lo sguardo di Eliza, il sorriso svaniva, lasciandola confusa e colpevole, ma un attimo dopo ritornava, furtivo. «Puah! Se avessi del denaro da sprecare», disse Eliza con aria truce, «forse lo brucerei per godermi lo spettacolo di una bella fiammata, ma non lo darei mai per il circolo ricreativo, neanche un centesimo. Non è di alcuna utilità alla comunità. Serve solo ai giovani per incontrarsi e civettare quando farebbero meglio a starsene a casa, nei loro letti». «Oh, Eliza, la gioventù ha bisogno di qualche svago», protestò Catherine. «Non ne vedo la necessità. Noi non ce ne andavamo a zonzo di qua e di là quando eravamo giovani, Catherine Andrew. Questo mondo diventa peggio ogni giorno che passa». «Io penso invece che migliori», disse Catherine decisa. «Tu pensi?» La voce della signorina Eliza esprimeva un assoluto disprezzo. «Non significa niente quel che tu pensi, Catherine Andrew. I fatti sono fatti». «Beh, a me piace sempre vedere il lato buono delle cose, Eliza». «Non esistono lati buoni». «Ma sì che esistono, davvero», gridò Anna, che non poteva tollerare di sentire una tale eresia e di starsene in silenzio. «Ce ne sono tantissimi di lati buoni e allegri, signorina Andrew. È veramente bello il mondo». «Non la penserai così quando avrai vissuto quanto ho vissuto io», replicò acida la signorina Eliza, «e non sarai così entusiasta dell'idea di migliorarlo. Come sta tua madre, Diana? Peccato, è andata un po' giù ultimamente. Ha l'aria di essere davvero a terra. E Marilla, quanto pensi che manchi ancora prima di diventare completamente cieca?» «Il dottore dice che gli occhi non dovrebbero peggiorare se fa attenzione», balbettò Anna. Eliza scosse la testa. «Ah, i medici dicono sempre così, per tenere su di morale il paziente, ma non ci conterei troppo se fossi lei. Meglio essere preparati al peggio». «Ma non dovremmo essere ugualmente preparati al meglio?» ribatté Anna. «È altrettanto probabile che accada quanto il peggio». «Non secondo la mia esperienza, e io ho 57 anni contro i tuoi 16», ribatté Eliza. «Oh, dovete andare? Bene. Spero che questa vostra nuova società contribuisca a evitare ad Avonlea una ulteriore decadenza, anche se non ci spero molto». Anna e Diana se ne uscirono con un sospiro di sollievo e si allontanarono con la maggiore velocità consentita dal grasso pony. Mentre giravano la curva sotto la faggeta, una figurina grassottella attraversò correndo il pascolo del signor Andrew, facendo grandi cenni con la mano. Era Catherine Andrew, così trafelata che riusciva a malapena a parlare. Ficcò un paio di monete da 25 cents in mano ad Anna. «Questo è il mio contributo per ridipingere il circolo», disse ansante. «Avrei voluto darvi un dollaro, ma non ho osato prenderne di più dal salvadanaio. Eliza se ne accorgerebbe. Mi interessa davvero la vostra società e credo che riuscirete a fare un sacco di bene». «Sono ottimista io». «Devo esserlo, vivendo con Eliza. Ora bisogna che mi affretti prima che si accorga che sono qui. Crede che io sia andata a dare il becchime alle galline. Spero che abbiate successo con la vostra colletta e non lasciatevi deprimere da quello che ha detto Eliza. Il mondo va meglio, questo è certo». La casa successiva era quella di Daniel Blair. «Ora tutto sta a vedere se sua moglie è in casa o no», disse Diana mentre scendevano sobbalzando lungo un viottolo molto accidentato. «Se è in casa non avremo un centesimo. Lo dicono tutti che Dan Blair non s'azzarda neanche a farsi tagliare i capelli senza il suo permesso. E quel che è certo è che è parecchio avara, per dirla con moderazione. Afferma che vi è costretta, perché rischia sempre di essere generosa. Ma la signora Linde dice che di rischi non ne corre proprio, perché la generosità non sa nemmeno dove stia di casa». Anna, quella sera, raccontò a Marilla la sua esperienza in casa Blair. «Abbiamo legato il cavallo e poi abbiamo bussato alla porta della cucina e non è comparso nessuno. Ma la porta era aperta e abbiamo sentito che c'era qualcuno nel tinello che si abbandonava a una sequela di improperi. Non riuscivamo a capire le parole, ma Diana dice che è sicura che fossero imprecazioni, almeno dal suono. Non posso pensare questo del signor Blair, che è una persona così tranquilla e mite, ma perlomeno ha l'attenuante della provocazione grave, Marilla, perché quando finalmente quel poveraccio è comparso sulla soglia, rosso come una barbabietola, con il sudore che gli colava sul viso, aveva indosso uno dei grandi grembiuli di percale di sua moglie. Non riesco a togliermi questo affare della malora, ha detto. Le stringhe sono legate in un nodo stretto e non riesco a romperle, perciò dovete scusarmi, signorine. Noi gli abbiamo detto che per carità non ci facesse caso e siamo entrate e ci siamo messe a ridere. Anche il signor Blair si è messo a sedere, si è girato il grembiule sulla schiena e poi l'ha arrotolato, ma aveva l'aria così afflitta e preoccupata che mi è dispiaciuto per lui. E Diana ha detto che temeva fossimo venute nel momento sbagliato. «Oh, no, no, affatto!» ha risposto il signor Blair con un sorriso stentato. «Sai che è sempre molto gentile. Il guaio è che ho molto da fare, devo preparare una torta da mettere in forno. Mia moglie oggi ha ricevuto un telegramma da sua sorella di Montreal, che arriva stasera, ed è andata a prenderla alla stazione, e mi ha ordinato di fare una torta per il tè. Mi ha scritto la ricetta e mi ha detto come dovevo fare». Ma ora ho dimenticato la metà di quel che mi ha detto. E la ricetta dice aromatizzare a piacere. Che significa? Come si fa a stabilirlo? E se quello che piace a me non piace agli altri? Credete che un cucchiaino di vaniglia basti per una torta piccola a un solo strato? Ero più che mai dispiaciuta per quel povero uomo. Non mi sembrava si trovasse nel suo ambito naturale. Avevo sentito parlare di mariti dominati dalla moglie e capivo di averne davanti uno. L'avevo sulla punta della lingua. Signor Blair, se lei sottoscrive qualcosa per il circolo, la torta gliela farò io. Ma poi ho pensato che non sarebbe stato leale porre delle condizioni così dure a un tuo simile che si trova in difficoltà. Così mi sono offerta di fargli la torta senza alcuna condizione. Alla mia profferta ha fatto un balzo. Ha detto che aveva l'abitudine di cuocersi il pane da solo prima di sposarsi, ma che temeva che una torta fosse al di sopra delle sue possibilità e, d'altra parte, gli dispiaceva di deludere sua moglie. Mi ha procurato un altro grembiule. Diana ha sbattuto le uova, io gli ho mescolato la torta. Il signor Blair correva in qua e in là procurandoci tutti gli ingredienti. Si era completamente dimenticato di avere il grembiule e quando correva gli sventolava dietro e Diana ha detto che credeva di morire dal ridere vedendolo. Poi ha detto che a metterla in forno ci avrebbe pensato lui. Questo lo sapeva fare. C'era abituato e poi ci ha chiesto la lista e ci ha dato $4. Perciò, vedi, siamo state ricompensate. Ma anche se non ci avesse dato un centesimo, sarei stata sicura di aver compiuto un'azione davvero cristiana, aiutandolo. La tappa successiva era la casa di Theodore White. Né Anna né Diana vi erano mai state prima e conoscevano solo di sfuggita la signora White, che non era molto portata all'ospitalità. Era meglio passare dalla porta sul retro, o forse dalla porta principale. Mentre si consultavano, bisbigliando, la signora White comparve sulla porta principale reggendo una bracciata di giornali. Con decisione li depose a uno sul pavimento della veranda e sui gradini, e poi lungo il sentiero fino ai piedi delle sue sconcertate visitatrici. «Vi dispiace strofinare i piedi ben bene sull'erba e poi camminare su questi giornali?» disse la padrona di casa. «Ho appena finito di spazzare tutta la casa e non voglio che entri altra polvere. Il sentiero è tutto fangoso dopo la pioggia di ieri». «Non azzardarti a ridere», avvertì Anna in un sussurro mentre marciavano sui giornali. «E ti supplico, Diana, non mi guardare, qualunque cosa lei dica, altrimenti non riuscirò a rimanere seria». I giornali continuarono fino nell'atrio e poi nel salotto, che era in ordine perfetto, senza un granello di polvere. Anna e Diana sedettero con circospezione sulla sedia più vicina e spiegarono il motivo della visita. La signora White le ascoltò con gentilezza, interrompendole soltanto due volte, una per dar la caccia a una mosca sventata, l'altra per raccogliere un minuscolo filo d'erba caduto sul tappeto dal vestito di Anna. Anna si sentì tremendamente colpevole, ma la signora White sottoscrisse $2 e li pagò subito per evitarci di dover tornare, annotò Diana quando furono andate via. La signora White aveva già raccolto tutti i giornali prima che loro avessero slegato il cavallo e mentre uscirono dal cortile la videro tutta affaccendata a maneggiare la scopa nell'atrio. Avevo sempre sentito dire che la moglie di Theodore White è la persona più pulita che esista al mondo e ne sono convinta dopo questa accoglienza, disse Diana dando sfogo alle risate represse. Per fortuna non ha bambini, fece Anna seria seria. Sarebbe molto penoso per loro se ne avesse. Dagli Spencer, la signora Isabella Spencer la demoralizzò dicendo malignità a proposito di ogni abitante di Avonlea. Il signor Thomas Boulter rifiutò di contribuire in alcun modo, poiché il circolo, quando era stato costruito 20 anni prima, non lo era stato sul luogo consigliato da lui. La signora Esther Bell, che era il ritratto della salute, impiegò mezz'ora a descrivere minuziosamente tutti i mali e i dolori che l'affliggevano. E con tristezza versò 50 centesimi, visto che non avrebbe più potuto farlo l'anno seguente, poiché sarebbe stata nella tomba. Ma la peggiore accoglienza, tuttavia, la ricevettero a casa di Simon Fletcher. Quando entrarono con il calesse nel cortile, videro due visi che le sbirciavano dalla finestra della veranda. Ma per quanto bussassero e aspettassero pazientemente e con insistenza, nessuno venne ad aprire. Le due ragazze, decisamente irritate e indignate, abbandonarono il domicilio di Simon Fletcher. Perfino Anna ammise che cominciava a sentirsi scoraggiata, ma subito dopo le sorti si capovolsero. Seguirono parecchie abitazioni degli Sloane, dove raccolsero generose sottoscrizioni, e da lì fino alla fine tutto andò bene e buscarono solo qualche ramanzina di tanto in tanto. L'ultima casa che visitarono fu quella di Robert Dixon, vicino al ponte sullo Stagno. Si fermarono a prendere il tè, pur essendo quasi arrivati a casa, piuttosto che correre il rischio di offendere la signora Dixon, che aveva fama di essere una donna molto suscettibile. Erano ancora lì, quando arrivò la vecchia signora White. «Sono appena stata da Lorenzo», annunciò. «In questo momento è l'uomo più felice di Avonlea, sapete? Gli è nato finalmente un maschietto, e dopo 7 femmine vi garantisco che è un vero e proprio avvenimento». Anna drizzò le orecchie e quando furono andate via disse: «Vado di filato da Lorenzo White». «Ma abita sulla strada di White Sands ed è parecchio lontano dal nostro percorso», protestò Diana. «Tocca a Gilbert e a Fred». «Ma faranno il giro solamente sabato prossimo e allora sarà troppo tardi», disse Anna con decisione. «La novità non gli farà più effetto. Lorenzo White è un gran spilorcio, ma in questo momento sottoscriverà qualunque somma. Non dobbiamo farci scappare questa magnifica occasione, Diana». Il risultato confermò le previsioni di Anna. Il signor White venne loro incontro nel cortile raggiante come il sole a Pasqua e quando Anna gli propose di dare un contributo, accettò con entusiasmo. Certo, vi prometto $1 in più della cifra più alta che avete ottenuto finora». «Farebbe $5. Il signor Daniel Blair ne ha versati 4», disse Anna con un certo timore, ma Lorenzo non batté ciglio. «Ed ecco i $5, pronta cassa. Ora vorrei che entraste in casa. C'è qualcosa a cui vale la pena di dare un'occhiata, qualcosa che solo pochissimi hanno visto finora. Entrate e ditemi la vostra opinione». «E che si fa se il bambino è brutto?» sussurrò Diana trepidante mentre seguivano il più che eccitato Lorenzo all'interno della casa. «Oh, troveremo qualche altra cosa carina da dire», disse Anna disinvolta. «C'è sempre qualcosa da dire di un bambino». Il bambino non era brutto, in ogni caso, e il signor White sentì di aver speso bene i suoi soldi alla vista della sincera ammirazione delle due ragazze per il neonato roseo e paffutello, ma fu quella la prima, l'ultima e l'unica volta che Lorenzo White aderì a una sottoscrizione di qualunque tipo fosse. Anna, stanca com'era, fece un ultimo sforzo per il bene pubblico quella sera, sgattaiolando attraverso i campi per interpellare il signor Harrison che, come al solito, fumava la pipa sulla veranda con Ginger accanto. A rigor di termini, Harrison sarebbe toccato a chi batteva la strada per Carmody, ma a Jane e Gertie, che lo conoscevano solo per sentito dire, avevano pregato Anna di sostituirle, un po' intimorite. Il signor Harrison, tuttavia, rifiutò di sottoscrivere un solo centesimo e vane risultarono tutte le blandizie di Anna. «Ma io credevo che lei approvasse la nostra società, signor Harrison», si lamentò la ragazza. «È vero, infatti, è vero, ma la mia approvazione non arriva fino alla mia tasca, Anna». «Ancora qualche esperienza come quelle avute oggi e finirò con il diventare pessimista come la signorina Eliza Andrew», confessò Anna alla propria immagine riflessa nello specchio della sua cameretta situata nell'abbaino di Green Gables, volto a oriente. Era giunta l'ora di andarsene a letto. Capitolo 7. Anna si abbandonò sulla sedia una dolce sera di ottobre e sospirò. Sedeva a un tavolo disseminato di libri e quaderni, ma i fogli coperti di una scrittura fitta davanti a lei non avevano nulla a che vedere con lo studio o con la correzione dei compiti di scuola. «Che cosa c'è?» chiese Gilbert, che era comparso sulla soglia della porta della cucina giusto in tempo per cogliere quel sospiro. Anna arrossì e nascose sotto alcuni temi di scuola quello che aveva scritto. «Nulla di così terribile. Stavo solo cercando di esprimere per iscritto certi miei pensieri, come mi aveva consigliato di fare il professor Hamilton, ma non ne sono soddisfatta. Sembrano così scolastici e sciocchi appena sono fissati sulla carta bianca con l'inchiostro nero. Le fantasie sono come le ombre, non puoi costringerle in una gabbia. Sono così mutevoli e danzanti. Non ho molti momenti liberi, lo sai. Quando ho finito di correggere i compiti di scuola e i temi, non sempre ho voglia di scrivere qualcosa per conto mio. Te la stai cavando magnificamente a scuola, Anna. Tutti i bambini ti vogliono bene», disse Gilbert, sedendosi sulla soglia dell'uscio. «No, non tutti. Anthony Pye non mi vuole bene, non me ne vorrà mai, e quel che è peggio, non mi rispetta. No, te lo assicuro, anzi, mi disprezza e ti confesso che mi preoccupa parecchio. Non che sia proprio cattivo, è un po' birbante, ecco, anche se non lo è più di tanti altri. Mi disobbedisce di rado, ma quando obbedisce lo fa con una tale aria di tolleranza come se non ne valesse neanche la pena di discutere. Cosa che altrimenti farebbe, il che ha una cattiva influenza sugli altri. Ho cercato in ogni modo di farmelo amico, ma comincio a temere che non ci riuscirò mai. Eppure vorrei, perché è un ragazzino intelligente per essere un Pye, e mi sarebbe simpatico se me lo consentisse. Probabilmente è così a causa di quello che sente dire in casa. Non del tutto. Anthony è un tipetto indipendente, si fa una sua idea delle cose. È sempre stato abituato con un maestro e dice che le ragazze come insegnanti non valgono nulla. Bene, vedremo se la pazienza e la gentilezza porteranno qualche frutto. Mi piace superare le difficoltà e insegnare è davvero un lavoro interessante. Paul Irving mi compensa di tutto quello che manca agli altri. Quel ragazzo è un vero tesoro, Gilbert, e per giunta è un genio. Sono convinta che farà parlare di sé un giorno o l'altro», concluse Anna con aria sicura. «Anche a me piace insegnare», disse Gilbert. «Tanto per dirne una, è un ottimo allenamento. Per Diana, Anna, lo sai che ho imparato di più nelle settimane che ho insegnato ai giovani ingegni di White Sands di quanto non abbia imparato in tutti gli anni in cui sono andato a scuola? Mi sembra che tutti quanti ce la caviamo onorevolmente. Alla gente di Newbridge Jane è simpatica, così mi dicono, e credo che a White Sands siano discretamente soddisfatti del tuo umile servitore, tutti ad eccezione del signor Andrew Spencer. Ieri sera, tornando a casa, ho incontrato la signora Blewitt, la quale mi ha riferito che riteneva suo dovere informarmi che il signor Spencer non approva i miei metodi». «Non ti sei mai accorto?» chiese Anna. «Che quando la gente afferma che ritiene suo dovere dirti una cosa, puoi scommettere che si tratta di qualcosa di spiacevole? Come mai, a quel che sembra, non ritengono loro dover riferirti tutte le cose gradevoli che sentono dire sul tuo conto? La signora Donnell è venuta di nuovo a scuola ieri e mi ha detto che riteneva suo dovere informarmi che la signora Andrews non approva il fatto che io legga fiabe ai bambini e che il signor Rogerson era dell'idea che Prilly non facesse i debiti progressi in aritmetica. Se Prilly passasse meno tempo a fare l'occhietto ai ragazzi di sopra la sua lavagna, forse andrebbe meglio in aritmetica. Sono quasi sicura che Jack Gillis le fa gli esercizi in classe, ma finora non sono riuscita a coglierlo con le mani nel sacco. E a far riconciliare quel giovane di belle speranze che è figlio della signora Donnell con il suo santo nome, ci sei riuscita?» «Sì», rise Anna, «ma è stata un'impresa veramente ardua. Da prima, quando lo chiamavo Sinclair, non se ne dava per inteso, finché non lo ripetevo almeno due o tre volte. E poi, quando gli altri gli davano di gomito, alzava la testa e mi guardava con due occhi così tristi, come se lo avessi chiamato John o Charlie e avessi preteso che mi rispondesse. Perciò Una sera l'ho trattenuto a scuola, dopo le lezioni, e gli ho spiegato con gentilezza come stavano le cose. Gli ho detto che sua madre desiderava che lo chiamassi Sinclair e che non potevo oppormi ai desideri di sua madre. Quando glielo ho spiegato, ha capito benissimo. È davvero un ragazzino molto ragionevole e mi ha detto che io potevo chiamarlo Sinclair, ma che se qualche ragazzo vi si fosse azzardato, l'avrebbe riempito di botte. Naturalmente ho dovuto sgridarlo per aver usato quel linguaggio oltraggioso. Da quel momento io lo chiamo Sinclair e i compagni lo chiamano Jake e tutto va per il meglio. Mi ha comunicato che ha intenzione di fare il falegname, ma la signora Donnell sostiene che devo avviarlo alla carriera di professore di università. La parola università diede una nuova direzione ai pensieri di Gilbert e parlarono per un po' di tempo dei loro progetti e delle loro speranze, con ardore, serietà, fiducia, come parlano i giovani quando l'avvenire è ancora un sentiero non battuto e ricco di meravigliose possibilità. Gilbert aveva finalmente deciso che avrebbe fatto il medico. È una magnifica professione, disse pieno di entusiasmo. Un uomo deve pur combattere per qualche cosa nella sua vita. Qualcuno non ha definito l'uomo un animale che combatte? E io voglio combattere la malattia, il dolore, l'ignoranza che vanno tutti a braccetto. Voglio fare la mia parte di lavoro con onestà e lealtà, aggiungendo un granello alla somma delle conoscenze che gli uomini degni di questo nome sono andati accumulando fin dall'inizio. Coloro che sono vissuti prima di me hanno fatto tanto per me e io voglio dimostrare la mia gratitudine facendo qualcosa per coloro che vivranno dopo di me. Mi sembra che sia l'unica via che uno può scegliere per saldare i suoi conti con la razza umana, no? Io vorrei aggiungere un po' di bellezza alla vita, disse Anna con voce sognante. Non voglio che la gente sappia di più, anche se riconosco che questa è la più nobile delle ambizioni. Mi piacerebbe tanto che qualcuno avesse la vita più piacevole. Vorrei creare qualche piccola gioia o qualche pensiero felice che non sarebbero mai esistiti se io non fossi nata. Credo che tu riesca a realizzare questa tua ambizione ogni giorno, disse Gilbert in tono di ammirazione. Ed era vero, Anna fin dalla nascita era figlia della luce. Quando entrava nella vita di un altro con un sorriso o una parola che l'illuminava come un raggio di sole, quella creatura scopriva, almeno per il momento, che la vita era bella, piena di speranze e che valeva la pena di viverla. Alla fine, a malincuore, Gilbert si alzò. Beh, devo andare. Devo andare da Macpherson. Moody Spurgeon è venuto a casa oggi per il fine settimana dalla Queen's Academy e credo mi abbia portato un libro che mi ha prestato il professor Boyd. E io devo preparare il tè per Marilla. È andata a trovare la signora Keith e sarà presto di ritorno. Il tè era pronto quando Marilla tornò a casa. Il fuoco scoppiettava allegramente. Un vaso colmo di felci sbiancate dal gelo e di foglie di faggio rosso rubino adornava la tavola e un profumo appetitoso di prosciutto e pane abbrustolito inondava l'aria. Ma Marilla si lasciò cadere sulla sedia con un profondo sospiro. «Ti danno noia gli occhi? Ti fa male la testa?» le domandò Anna impensierita. «No, sono solo stanca e preoccupata. E per Mary e i bambini, Mary è peggiorata. Non so quanto potrà durare». E quanto ai gemelli non so davvero che cosa accadrà di loro. Non hanno saputo nulla dello zio? Sì, Mary ha ricevuto una sua lettera. Dice che lavora in un cantiere di disboscamento e che ha intenzione di svernarvi. Se ho ben capito. E dice in ogni caso che non può prendere i bambini fino a primavera. A quell'epoca sarà sposato e avrà una casa dove accoglierli, ma aggiunge che per il momento Mary dovrebbe chiedere a qualcuno dei vicini di tenerli per l'inverno. Lei dice che non ha il coraggio di chiederlo a nessuno, non è mai stata in gran buoni rapporti con la gente di East Grafton, questo è un fatto. E il succo del discorso, Anna, è che sono sicura che Mary vuole che prenda io i bambini. Non me l'ha detto esplicitamente, ma l'ho capito. Oh! Anna si strinse le mani tutta emozionata. E tu lo farai, Marilla, vero che lo farai? Non ho ancora deciso, disse Marilla con una certa asprezza. Non sono precipitosa come te, Anna. Come mia cugina di terzo grado, Mary ha ben poco da pretendere e sarà una grossa responsabilità dover badare a due bambini di 6 anni, gemelli, per giunta. I gemelli sono molto interessanti. Solo una coppia, voglio dire, osservò Anna. È soltanto quando si tratta di due o tre coppie che la faccenda diventa monotona. E credo che ti farebbe bene avere qualcuno per distrarti un po' quando io sono a scuola. Non si tratta di distrazione, quanto piuttosto di preoccupazione e fastidio, direi, Anna. Non sarebbe così rischioso se avessero almeno la stessa età che avevi tu quando sei arrivata qui. Non è di Dora che mi preoccupo, ma quel Davy è proprio un ragazzaccio. Anna amava i bambini e i gemelli Keith le facevano molta tenerezza. Il ricordo della sua infanzia abbandonata era ancora molto vivido in lei. Sapeva che l'unico punto vulnerabile di Marilla era il suo rigido attaccamento al dovere e abilmente fece leva su questo nelle sue argomentazioni. Quanto più Davy è maleducato, tanto più è necessario che venga tirato su bene, vero Marilla? Se non li prendiamo noi, non sappiamo chi lo farà né che sorta di influenze potranno subire. Pensa un po' se dovessero prenderli gli Sprott, che abitano a porta a porta con la signora Keith. La signora Lind dice che Harry Sprott è la persona più blasfema che esista e che non si può credere a una parola di quel che dicono i suoi figli. Non sarebbe terribile se i gemelli imparassero a comportarsi in questo modo o se andassero dai Wiggins. La signora Lind dice che il signor Wiggins è capace di vendersi tutto quello che ha in casa e che mantiene la famiglia a latte scremato. Non vorresti che i tuoi parenti morissero di fame, anche se sono solo tuoi cugini di terzo grado, vero? Mi sembra, Marilla, che sia nostro dovere prendere quei bambini. Lo credo anch'io, assentì Marilla rassegnata. Penso che dirò a Mary che li prendo io. Ma non c'è bisogno di avere quell'espressione così felice, Anna. Significherà parecchio lavoro supplementare per te. Io non posso dare un punto a causa dei miei occhi, dovrai pensare tu a cucire e a rammendare i loro vestiti, e lo sai che cucire non ti piace. Sì. Detesto cucire, disse Anna con calma, ma se tu sei disposta a prendere i bambini per puro senso del dovere, anch'io posso cucire per puro senso del dovere. Fa bene fare qualcosa di cui non hai tanta voglia, con moderazione, si intende.